L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati, questa è una nuova puntata dell'Altro Pianeta nella quale proseguiremo il viaggio nei consorzi del CONAI. L'occasione sono stati i 20 anni del consorzio che coordina il lavoro di altri 6 consorzi che sono dedicati alla raccolta e al riciclo di imballaggi in diversi materiali. Di CONAI, Comieco e Corepla abbiamo parlato la scorsa settimana e ritroverete tutto su internet se volete nella pagina dell'Altro Pianeta. In questa puntata sentiremo invece come va negli altri consorzi che abbiamo incontrato a Ecomondo, a Rimini, la fiera di un po' tutto ciò che è eco, quindi. Cominciamo con Bruno Rea, che è presidente del CIAL, il consorzio per il recupero dell'alluminio, che abbiamo intervistato insieme con Nicola Semeraro, che è il presidente di Rilegno. L'alluminio è arrivato a raccogliere il 73% del materiale di imballaggio immesso sul mercato e siamo non lontani rispetto a quelli che sono i target della Comunità Europea per i prossimi 10 anni. Abbiamo una copertura di comuni attivi pari a 6.740 comuni che rappresentano l'84% dei comuni italiani e copriamo circa l'88% della popolazione, alias 52 milioni di abitanti in tutta Italia. Particolarità dell'Italia: in Italia si producono circa 900.000 tonnellate di alluminio a fronte di una produzione in Italia di alluminio primario pari a zero, ragion per cui il materiale di recupero rappresenta una quota molto, molto importante per la produzione dell'alluminio in Italia. Vabbè, direi fondamentale, perché se il 100% ce l'abbiamo da lì è fondamentale. Tra l'altro è una bellissima storia anche da raccontare, certo. Di economia circolare, di evitare gli sprechi, evitare qualunque tipo di certo. Di lo sforzo che stiamo facendo adesso è quello sempre per promuovere sempre di più la raccolta, è quello di allargare le qualità dei prodotti che noi stiamo raccogliendo dal mercato e quindi oltre alle lattine che sono già a livelli percentuali elevatissimi, già oltre quelli che sono i target europei futuri, stiamo adesso promuovendo la raccolta degli altri prodotti, quale la vaschetta piuttosto che il tappo in alluminio, il coperchio dello yogurt e così via. E abbiamo a tal proposito adesso lanciato una campagna di comunicazione abbastanza capillare sul territorio, utilizzando tra l'altro le principali radio nazionali dal titolo Non solo lattine. Poi torneremo su questo aspetto del recuperare tutto, perché non tutti in Europa lo fanno e quindi mi non sembra tutti importante. In Europa. Ma diciamo che l'Italia è all'avanguardia. E soprattutto il costo-beneficio che abbiamo in Italia non lo raggiunge ancora nessuno. Allora, per quel che riguarda invece Rilegno, anche Rilegno vanta dei numeri direi molto interessanti, se guardiamo indietro è quello che siamo arrivati adesso, e anche dei risultati importanti. Sì, Rilegno è un consorzio che negli ultimi 20 anni ha raccolto circa 27 milioni di tonnellate di legno, è un numero impressionante. Noi l'anno scorso abbiamo raccolto circa 1.700.000 tonnellate, l'equivalente di 90.000 viaggi di camion dalla Sicilia al Trentino. Siamo impegnati, oltre alla raccolta, siamo impegnati molto nel cercare di, in maniera capillare, riuscire a posizionarci sul territorio nazionale. Noi abbiamo più di 400 piattaforme in Italia dove raccogliamo legno. L'Italia è un paese che acquista quasi tutto il legno di cui ha bisogno dall'estero, quindi Rilegno svolge un lavoro importantissimo, in quanto poi tutto il materiale raccolto viene avviato al riciclo dall'industria verso l'industria del pannello, che poi servirà alla produzione di mobili. Quindi siamo, che è tra l'altro un'eccellenza italiana, che è un'eccellenza questa, italiana, diciamo, certo, si serve anche un mercato importante. Certo. L'importanza del consorzio è proprio quello di mettere a disposizione dell'industria del riciclo una materia prima seconda di cui il paese, pur essendo ricco, in quanto l'Italia è un paese dove ci sono molti boschi, c'è un territorio boschivo molto, molto elevato, ma non essendoci una vera politica forestale, quindi siamo costretti ad acquistare quasi il 90% di quello di cui abbiamo bisogno verso l'estero, quindi il legno si pone in una condizione, diciamo così, di eccellenza, e quindi svolge un lavoro molto importante per tutto quello che è l'industria del pannello e del mobile. Allora, certamente, appunto, lei ha nominato la questione boschi, ma quella non vi riguarda, è una questione da approfondire perché è una pecca, diciamo. Sì, diciamo non ci riguarda, però l'essenza del materiale, legno, materiale molto naturale, quindi noi su questo stiamo facendo una grossa campagna. Immagino siate impegnati anche a sviluppare un sistema di tracciabilità di questa, sì, no? Perché questo sulla questione del legno è noi è già da qualche tempo che stiamo cercando di far diventare, anche perché noi lo possiamo fare in quanto il nostro è un imballaggio secondario e terziario, a differenza del primario, noi abbiamo più spazio per poter rinnovare e rendere l'imballaggio non più un contenitore basta, ma anche un contenitore che oltre a trasportare delle merci è in grado anche di tracciarle queste merci. E quindi penso al pallet nel momento in cui trasporta merci di varia natura, ma penso, come parlavo prima, alla cassettina che possa identificarci e quindi a livello di consumatore può dare quel qualcosa in più per farci capire da dove arrivano le nostre mele piuttosto che la nostra verdura. E quindi pensiamo che sia una sorta di innovazione di cui il mercato sicuramente nei prossimi... Poi può portare sulla stessa cassettina anche altre indicazioni, perché comunque oggigiorno ormai ci... Assolutamente la tecnologia ci consente di mettere su quell'imballaggio qualunque tipo di informazione, qualunque, penso anche all'alluminio. Infatti diventa, oltre a un contenitore, un trasmettitore anche di dati, quindi poi lo si può utilizzare come meglio si crede. Tornando all'alluminio... L'alluminio, non le ho detto una cosa, l'imballaggio in alluminio è soltanto primario. Ragion per cui tutta la raccolta dell'unico imballaggio che è esclusivamente primario insieme al vetro, quindi tutta la raccolta... Cosa vuol dire primario? Spieghiamolo. Tutta... Primario significa che contiene, nel caso della lattina, la bevanda, piuttosto nella della vaschetta il cibo. Non è una scatola. Non è una scatola contenente altre imballi. Scatole. Quindi tutta la nostra raccolta viene fatta da raccolta differenziata, quindi è tutto post consumo. E nulla è preso dal sistema industriale, quindi lo sforzo per raggiungere questi numeri è notevole. È certamente. È notevole. Però raggiungere questi numeri con questo tipo di imballi così variegati significa anche avere una tecnologia di alto livello. Certo, l'alluminio viene raccolto insieme nella multireggero, insieme alla plastica, sì, tra l'altro, e all'acciaio, con grandi dopodiché variabilità. Viene separato in i tre prodotti vengono i tre imballi vengono separati e vanno in fonderia per avere nuova vita. Non si butta niente, non si perde mai l'alluminio, non si mia, ha una vita infinita. Però ecco, appunto, aver sviluppato queste tecnologie poi consente ad altri paesi magari che non le hanno di, come dice, quasi venderle o comunque di proporsi come leader su questo settore altrove, quindi avere in mano qualche cosa che si può spendere. Il sistema Italia per quanto riguarda la raccolta differenziata dell'alluminio è il secondo in Europa, ma è di gran lunga il più economico rispetto agli obiettivi raggiunti. Le chiedo un'ultima cosa e poi ci salutiamo. Ma che quali altri meravigliosi obiettivi potete raggiungere? Cioè avete ormai Dobbiamo arrivare a quelli che sono gli obiettivi prefissati dalla Comunità Europea per i prossimi, per l'anno 2020 e 2030, che prevedono di recuperare circa il 90%. Bella alta l'asticella, eh? L'asticella è molto alta perché passare da 0 al 20 o al 30% è abbastanza semplice. Un punto percentuale dopo certi livelli è un'impresa abbastanza ardua. Ecco, un salto con l'asta, insomma, non è che si fanno dei gran progressi di volta in volta. Certo. Per voi invece dove... Io volevo sottolineare il fatto che comunque, essendo noi un imballaggio non primario, se non nella parte dell'imballaggio ortofrutticolo, là siamo primari, infatti proprio perché siamo a contatto con gli alimenti, quindi il pallet io lo reputo che sia l'imballaggio degli imballaggi, perché trasporta tutto, tutti gli altri imballaggi. Quindi noi abbiamo lavorato, ha fatto un grande lavoro sul riutilizzo. Siamo meno presenti, diciamo così, verso il consumatore, il cittadino. Lavoriamo moltissimo su tutto quello che è la rete, diciamo così, dell'industria, e quindi le nostre 400 piattaforme sono sviluppate proprio su tutto il territorio nazionale e vanno a soddisfare quelle che sono le richieste dell'industria. Ma non per questo non siamo presenti anche nei comuni. Ad esempio, noi abbiamo convenzioni con più di 4.000 comuni e raccogliamo circa 500.000 tonnellate di imballaggi da tutti i comuni italiani, quindi dalle municipalizzate. Ci fermiamo un attimo, facciamo una piccola pausa e poi andremo a conoscere i consorzi per acciaio e vetro. Entra nel mondo radiofonico e televisivo con le nuove competenze 4.0. Master full time della Business School del Sole 24 Ore e Radio 24. Radio, TV e web content. Con diploma e stage. A Milano dal 27 novembre. Per candidarsi alle selezioni e borse di studio, www.radiomaster.ilsole24ore.com. L'altro pianeta. Ancora un buon pomeriggio da Laura Bettini. Dopo CIAL e Rilegno, passiamo ad altri due consorzi nazionali di recupero imballaggi. Sentiamo prima Federico Fusari, direttore generale del consorzio Ricrea per l'acciaio. In Italia si mettono al consumo circa 450.000 tonnellate l'anno di imballaggi in acciaio e nell'ultimo anno di cui abbiamo il risultato, cioè il 2016, siamo riusciti ad avviare a riciclo il 77,5% dell'immesso al consumo. È stato un percorso difficile, severo, che però ci ha portato in questi 20 anni da quando siamo nati da numeri intorno al 7-8% nei primi 2-3 anni a numeri di questo tipo. Da 7 a 77? Da 7 a 77 però. In 20 anni. Sono cifre importanti, sono cifre che vanno ben al di là degli obiettivi di legge che ancora si situano al 50%. Quindi possiamo dire che siamo abbastanza pronti per l'entrata in vigore delle nuove direttive europee molto ambiziose che arriveranno rispettivamente al 75% nel 2025 e all'80% nel 2030. Voi il 75 l'avete già? Nel 2025 già ci siamo. Però per andare al 2030 invece dove pensate di poter andare a crescere, quindi sull'aspetto imballaggi? Sì, è uno dei punti direi da approfondire e da migliorare per quanto riguarda la nostra attività, perché a fronte di regioni del nord-est fondamentalmente dove le percentuali di raccolte di riciclo sono molto elevate e soffriamo di una carenza della raccolta differenziata nel sud Italia, ma non in tutto, soprattutto nella Sicilia e nella Calabria, che vedono percentuali di raccolte estremamente limitate, estremamente basse. Se la media italiana si situa intorno al 2,8-3 kg abitante anno, questa è la misura del nostro riciclo, della nostra raccolta, faccia conto che nel sud Italia, in Sicilia particolarmente, siamo a meno di 700 grammi a testa, quindi il percorso è importante, tenendo anche conto che il numero di abitanti di certe regioni del sud Italia, come la Sicilia, che supera i 5 milioni di abitanti, ha un impatto fondamentale sul totale della raccolta. Cioè non parliamo di una Valle d'Aosta, di un Molise, parliamo di una regione da 5 milioni di abitanti. Non un dettaglio, noi non abbiamo detto l'acciaio nelle nostre case dove lo troviamo, ma sta nelle cose più banali, cioè penso a una lattina di pelati. Esatto, sì. Quindi quei 700 grammi della Sicilia sono ancora più impressionanti. Esatto, anche perché immagino che in Sicilia di salsa di pomodoro se ne mangi consumeranno, molta. Ecco. Anche di tonno. Certo. Quindi sì, gli imballaggi in acciaio, una breve parentesi per illustrare quali sono. Fondamentalmente sono contenitori a uso alimentare. C'è però tutto un ciclo diverso che è l'utilizzo industriale, fatto da latte General Line, quindi per pitture, vernici, fusti a 200 litri, quelli fondamentalmente che conosciamo per oli minerali. Quindi a maggior ragione è impressionante che certe regioni ne raccolgano così pochi, non le raccolgono proprio? Allora, il problema vero è che queste regioni non ne raccolgono in maniera differenziata, perché la raccolta differenziata, non dimentichiamolo, è uno strumento importante per arrivare al riciclo. Il riciclo è l'obiettivo finale. Per quanto riguarda l'acciaio, che è un materiale, è una risorsa permanente, facilissimamente raccoglibile tramite un magnete, la raccolta differenziata è chiaramente preferibile per un discorso qualitativo, ma lo si può anche raccogliere in maniera indifferenziata, quindi da una selezione dell'indifferenziato fatta prima dell'avvio o a termolarizzazione o in discarica, semplicemente con un magnete il contenitore in acciaio si può prelevare e avviare al riciclo. Però questa selezione deve essere fatta. Il problema di certe regioni del sud, soprattutto la Sicilia ancora una volta purtroppo, è che non veniva fatta neanche la selezione prima di avviare a discarica. Da un paio d'anni siamo riusciti, attraverso la captazione dell'indifferenziato, ad avviare a riciclo anche acciaio raccolto in Sicilia. Però la qualità di questo acciaio è piuttosto modesta, quindi l'obiettivo nostro è quello, insieme alle istituzioni locali, alle amministrazioni locali, quelli di sviluppare, grazie anche agli incentivi di tipo economico, la raccolta differenziata in certe aree arretrate. Diciamo una cosa, quanto della nostra produzione nazionale di acciaio si basa sul riciclo? Certamente, sì. L'Italia è un paese innanzitutto povero di materie prime, quindi ha dovuto fare di necessità virtù, ma è un paese in cui la percentuale di acciaio prodotto da fonti rinnovabili, quindi da rottami, quindi da raccolte differenziate via riciclo, è quasi il 70% del totale della capacità produttiva. Non un dettaglio. È il primo paese in Europa e uno dei primi al mondo. Questo significa quindi minor spreco, utilizzo di risorse in materia prima vergine, minore impatto ambientale di emissioni, perché l'emissione di un'acciaieria elettrica rispetto a un'emissione di un altoforno sono un quarto, quindi immaginiamo la differenza, pensiamo a Taranto, pensiamo a dove sono le acciaierie con altoforno in Europa. E la sfida del futuro però è quella di riuscire a coprire tutta la gamma dei prodotti siderurgici utilizzando al più possibile il rottame. L'Italia è ai primi posti nel mondo ed è l'unico paese in cui un'acciaieria riesce a produrre i prodotti piani, quindi i coils, che sono la base per produrre materiali più sofisticati, quali lo stampaggio delle carrozzerie auto, lamiere per coperture, la stessa banda assegnata, che è il nostro materiale principe per le scatolette, che riesce a produrre da rottame. E l'Italia è un pilastro in queste nuove tecnologie ed è un riferimento mondiale. E quindi anche questa specializzazione ha portato anche a nuove tecnologie, nuovi brevetti, nuove e possibilità di lavoro e di internazionalizzazione per le imprese. E a questo punto il vetro. Franco Grisan è il presidente del consorzio Coreve. Anche riciclare vetro risparmia moltissima energia, lo sentiremo. Noi produciamo circa 3.800.000 tonnellate di contenitori e però all'interno del nostro paese ne consumiamo 2.400.000. Il resto le esportiamo o vuote o piene. Questo significa che noi abbiamo bisogno di molto rottame per produrre quelle bottiglie che poi esportiamo. La raccolta è 30 kg per abitante. 30 kg. E nel nord sono 40 kg e nel sud sono 21 kg. Quindi c'è sempre la solita purtroppo differenza nord-sud. Infatti noi siamo molto concentrati nel sud, andiamo continuamente in Sicilia, in Puglia, in quelle regioni per stimolare, organizzare, affiancare i comuni nel fare la raccolta e abbiamo dei risultati perché per esempio quest'anno si sta avendo uno sviluppo della Sicilia del 52%, la Puglia probabilmente arriva al 10%, forse la Campania anche al 10%, quindi si sta muovendo anche il sud. E noi abbiamo bisogno che si muova perché abbiamo la comunità europea che sta pensando a importanti obiettivi che dovremo raggiungere. Senza il sud è impossibile fare gli obiettivi che ci verranno dati. Ma c'è anche un discorso dell'importanza stessa dell'avere questa materia per poterla poi riciclare. Assolutamente. Contribuisce all'economia nazionale. Contribuisce all'economia nazionale perché, per esempio, lo scorso anno noi abbiamo riciclato il rottame e abbiamo risparmiato energia e messo minor consumo nell'ambiente. Abbiamo detto più volte che l'energia che abbiamo risparmiato è equivalente a quello che è il gas che viene utilizzato a Genova per consumo domestico. Quindi. E l'anidride carbonica che non abbiamo immesso nell'ambiente per effetto dell'utilizzo del rottame E come se noi avessimo avuto una foresta pari alla Puglia e questa avesse assorbito l'anidride carbonica che veniva emessa precedentemente dall'ambiente. Anche da un punto di vista economico, senz'altro, perché comunque quell'energia costa. Assolutamente sì, così come costa la materia prima che noi risparmiamo e quindi e costano anche consumi le discariche. Esatto. Quindi sicuramente c'è un lavoro da fare sul sud. C'è anche altri lavori che possiamo fare, altri interventi che state studiando sicuramente per raggiungere e prepararsi a quegli obiettivi europei molto alti che riguardano anche la qualità della raccolta. Perché noi buttiamo in discarica, dopo aver raccolto, buttiamo in discarica circa il 10% di quello che abbiamo raccolto per effetto di impurità che vengono messe o di materiali impropri che vengono in particolare quando parliamo di materiali impropri parliamo di cristallo e della ceramica, però anche di lampadine piuttosto che di cose che sembrano vetro. E, a volte non sembrano proprio, perché la ceramica in realtà non sembra. Però stranamente noi abbiamo che spesso, forse perché si rompe in maniera simile a quella del vetro, il piatto che si rompe viene messo insieme al vetro e questo lo vediamo soprattutto nei bar e nella ristorazione. Che è curioso perché i dati che mi diceva prima, insomma, i cittadini sono più virtuosi di quanto non siano famiglie, bar e ristoranti. Sì, le famiglie stranamente buttano meno ceramiche insieme al vetro che i bar e ristoranti. L'inquinamento nel vetro che raccogliamo i bar e ristoranti è 2,5 volte quello che è l'inquinamento delle famiglie. Se noi riducessimo quello dei bar e ristoranti, riusciremmo veramente a diminuire in maniera sostanziale la presenza della ceramica, migliorare la qualità e fra l'altro dare anche più corrispettivi ai comuni, che dovrebbe essere un vantaggio per i comuni. Perché è il corrispettivo perché è minore la qualità del rottame, è inferiore il corrispettivo che noi diamo. Allora, lei mi diceva prima che avete fatto una grossa campagna anche nei confronti di bar e ristoranti per far passare questo messaggio, ma che il riscontro purtroppo non è stato così, no? così forte. Sì, che ci ha meravigliato perché noi fra mail che abbiamo mandato e lettere che abbiamo mandato, 500.000 comunicazione su una quantità di bar e di ristoranti che abbiamo valutato circa di 300.000, quindi è ridondante, probabilmente alcuni hanno avuto magari più di anche avuto 2 volte, però... Però lo spostamento che c'è stato è stato di molto modesto, di un 2% che si è spostato. Tuttora noi abbiamo qualcosa come il 16% degli intervistati che dicono no, io sono convinto che la ceramica deve essere messa insieme al vetro. E non è inspiegabile, capiamo, se te lo spiega il Coreve, cioè te lo spiegano gli addetti ai lavori, è inspiegabile che rispondano ancora così. Infatti. E ci fermiamo qui e concludiamo quindi con questa puntata il nostro viaggio attraverso i consorzi che fanno capo a CONAI, che è il Consorzio Nazionale per la Raccolta e il Riciclo dei Rifiuti da Imballaggio. Ci ritroviamo tra una settimana alla stessa ora. A tutti voi un buon proseguimento d'ascolto da Laura Bettini.